Marco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi preparatevi a una puntata forte. È una storia di quelle che non fanno dormire, vicenda intrisa di sopraffazione, misticismo, sesso, politica, e tutto sfocia nel delitto. Oggi raccontiamo la storia di un uomo che, pur essendo un semplice contadino, un uomo non istruito, arriva con i suoi poteri torbidi a tenere in pugno le sorti dell'impero russo, fino a impersonificare tutti i suoi mali. Stiamo parlando di Grigori Iefimovich Rasputin. Incominciamo subito col dire che si pronuncia Rasputin e non Rasputin o Rasputin come alcuni dicono, perché il suo cognome deriva dall'aggettivo Rasputni, che in russo significa depravato, in nome nomen, come si suol dire, nel nome il presagio. E depravato lo è Grigori Iefimovich Rasputin. Depravato, libertino, erotomane, ma anche un mistico, un santone, un guaritore. È un cocktail micidiale di ambiguità, religione e perversione come raramente si è visto nella storia dell'umanità. Un uomo senza istruzione che sa bene come irretire il prossimo e come cercare il punto debole in ogni persona. Ora ascolterete la mia voce. La mia voce vi aiuterà e vi condurrà sempre più a fondo dentro la mia storia. Ogni volta che sentirete la mia voce, a ogni parola, entrerete in uno stato di rilassamento sempre più profondo, più ricettivo. Ora siete il mio potere. Vi guiderò nei meandri più oscuri della mia storia. Conterò fino a tre. Uno. Rilassatevi. Due. Chiudete gli occhi e fate un respiro profondo. Questo è l'incipit del film Rasputin di Louis Nero del 2011. Ma cerchiamo di capire chi è Rasputin e come può un semplice contadino siberiano arrivare dove è arrivato lui. Nasce il 21 gennaio 1869 in un piccolo villaggio siberiano ai piedi dei monti Urali. 11 milioni e mezzo di chilometri quadrati fanno della Siberia uno dei territori più vasti e remoti del mondo, uno spazio immenso, vuoto, desolato, con pochissima gente che si muove in uno scenario freddissimo e ostile, una specie di selvaggio west dei ghiacci, dove il gelo entra nei cuori e non li abbandona più. I fasti della corte degli zar a San Pietroburgo sono lontanissimi, appaiono come un miraggio da favola per quelle genti dimenticate da Dio. Rasputin nasce e cresce a Pokrovskoye, una cittadina rurale ai margini estremi della civiltà, dove è facile immaginare quanto l'ignoranza si mescoli alle superstizioni e quanto la noia e il senso di abbandono spingano verso l'alcol e anche verso la follia. Il giovane Grisha, come lo chiamano in famiglia, cresce nell'ignoranza più totale, lavorando nei campi accanto al fratello, fino a quando non accade una tragedia dalla quale scaturisce il suo destino visionario. Paradise magic tend to answer passion and form with foreign rationalization. Rasputin e suo fratello hanno un incidente, cadono nei gorghi gelidi del fiume Tiura. potrebbero morire assiderati, ma Rasputin ha una forza disumana, riesce a trarre in salvo se stesso e anche il fratello Misha. Entrambi contraggono una gravissima polmonite, non ci sono antibiotici in quei tempi, tanto è vero che Misha muore. Grigori ha una tempra robusta e si dice che le male erbe sono dure a morire, febbre altissima, delle visioni, addirittura durante queste visioni gli appare la Vergine Maria che gli dice: ora sei guarito, puoi alzarti, e lui si alza miracolosamente, rimesso completamente. Da quel momento la religione diventa la sua fissa. Soprattutto si interessa agli Starets, che sono monaci e profeti erranti che vengono accolti con grande rispetto nei villaggi russi e nelle chiese, come racconta il professor Orlando Figes, autore del libro Rasputin, la tragedia di un popolo. La chiesa stava cercando personaggi spirituali ma genuini, provenienti dal popolo. Rasputin ricordava nell'aspetto i monaci del tempo e questo gli dava in qualche modo un'aura di autorità divina. Rasputin ha la fama di una persona pericolosa, di un delinquente, però ha delle doti che appaiono soprannaturali. Per esempio, guarisce i cavalli con il solo tocco della mano, predice il futuro. E sono tempi nei quali la magia e la religione si mescolano in qualcosa di oscuro e terribile. Il ragazzo sembra farne parte. Crescendo si sviluppa in modo notevole, scopre di avere un incredibile carisma nei confronti delle donne. Il suo sguardo è intenso, allucinato, ha qualcosa che attira, è magnetico. Lui ne approfitta perché è un libidinoso che ha maturato una sessualità perversa e malata. Riesce a avere tutte le ragazze che vuole, si sposa giovanissimo, mette al mondo 4 figli. Ma un giorno sostiene di avere una nuova visione. La Vergine Maria gli intima di lasciare tutto e diventare anche lui uno Starets. Puzzava come una capra. Aveva i capelli neri e lunghi, piuttosto unti, una barba spessa e sporca di resti dei pasti di una settimana. Faceva paura. Rasputin vive come un animale selvatico, sperimenta privazioni, solitudine, stenti. Alla fine raggiunge il monastero di Verkhoturye, dove per la prima volta incontra una forma ritualizzata della religione che gli apre un mondo nuovo. Le preghiere, le icone, le musiche sante gli appaiono strumenti che la religione gli mette a disposizione per raggiungere i suoi obiettivi malefici. Conosce anche un certo Makari, che è un religioso errante che è stato consigliere dello zar e della zarina. I regnanti credono che un pazzo devoto abbia la facoltà di vedere Dio e possa dare consigli divini su come governare. Rasputin trasforma il racconto di Makari in un impegno per la vita. Lui sarà consigliere degli imperatori e conquisterà la Russia. Gabbiano. oggi stiamo parlando di quella che in genere gli storici definiscono creatura del diavolo, per la ferocia, per la sete di sangue, per la violenza o per la capacità di dominare gli animi a loro favore. Personaggi come Caligola, Torquemada, Attila, personaggi i cui nomi fanno tremare intere generazioni. Noi stiamo parlando di Grigori Iefimovich Rasputin, il famigerato consigliere degli zar Romanov, a metà tra un monaco visionario e un libertino efferato. Parte dalla desolata e fredda Siberia, contadino povero e analfabeta, e con i suoi occhi di ghiaccio, con il dono della veggenza, riesce a conquistare la corte di Russia. È un ladro, un donnaiolo, è capace di ipnotizzare le persone per trarre beneficio. Si sposta alla maniera degli Stariez, i monaci erranti che girano di paese in paese, accolti dal popolo ignorante e superstizioso, ma i suoi obiettivi non sono certo benefici. Perché lui non è un monaco, non lo sarà mai, ma la sua apparenza è quella: i lunghi capelli neri, unti, sporchi, la barba incolta, puzzolente, indossa lo stesso saio scolorito da anni. Bene, il suo obiettivo, malgrado questo, è conquistare la fiducia dei nobili di San Pietroburgo per arrivare al suo obiettivo primario, gli imperatori. Nel suo peregrinare incontra gli esponenti di una setta non ortodossa, considerata illegale ma molto popolare in Russia, i Clisti. La loro visione è molto particolare: l'uomo può purificarsi dal peccato solo in un modo, abbandonandosi al peccato completamente e ascendere alla catarsi attraverso il pentimento che ne consegue. È perfetto, no? Fisicità e religiosità si mescolano in questo credo eretico che fa del rapporto sessuale anche di gruppo il suo fondamento. A Rasputin non sembra vero, è proprio la religione che fa per lui. Se tu vuoi raggiungere Dio, vivere in Cristo, allora tu devi peccare. E io posso essere il veicolo attraverso il quale tu possa peccare e trovare quindi il Signore. Beh, qui si parla di furbizia. La sua fama lentamente si espande grazie proprio a questo stratagemma così suggestivo, probabilmente anche per le donne che cadranno ai suoi piedi. Arriva alle porte della capitale, dove conosce non solo alcuni influenti religiosi come Ivan Sergeyev di Kronstadt, che è il favorito dello zar, ma anche le granduchesse Anastasia, Milica, che sono le figlie del re del Montenegro e amiche della zarina. Posso dirti una cosa intima? In pubblico? Ma sottovoce? Oh, se proprio devi. Nicky, io ti adoro. È una scena del film Nicole e Alessandra di Franklin Schaffner del 1971 che racconta le vicende dell'ultima coppia imperiale russa. A San Pietroburgo lo zar Nicola II Romanov e la sua amata consorte Alessandra vivono una vita di lusso sfrenato nei loro meravigliosi palazzi. La loro potrebbe sembrare una vita da favola, è allietata non solo dall'amore, perché si amano, ma anche da 5 figli, 4 femmine, Olga, Tatiana, Maria e Anastasia, e un maschio, lo Zarievich, l'erede al trono Alexei. Ma Alessandra, nipote della regina Vittoria, è come la nonna, è portatrice sana di emofilia che trasmette al gracilissimo figlio maschio, l'unico erede dei Romanov. Il futuro zar di tutte le Russie è gravemente malato. Un semplice taglietto può provocargli un'emorragia fatale. La zarina è disperata. La corte imperiale è un viavai continuo di santoni, guaritori, ciarlatani, finti preti, medici provenienti da ogni parte del mondo. Non si risparmia nulla per cercare di alleviare il male dello Zarievich. Ma le crisi di emorragia si susseguono. Nelle lunghe sere in società nei salotti della nobiltà di San Pietroburgo, lo Stariez siberiano Rasputin partecipa e organizza sedute spiritiche che vanno tanto di moda tra i ricchi russi dell'epoca. È artefice di guarigioni spettacolari, manifesta poteri fuori dal comune. Naturalmente è impossibile dire se si tratti di allucinazione collettiva o di reali poteri taumaturgici. E certo è che soprattutto le donne sono stregate. Il suo sguardo magnetico le affascina e anche se sono nobili dame dell'alta aristocrazia non si curano del suo aspetto al limite della decenza. E lui, seguendo alla lettera la propria religione clisti, si abbandona a ogni tipo di piacere con la scusa di essere il tramite per la redenzione dei peccati, soddisfa la propria libidine perversa e spesso violenta le donne accoppiandosi con un numero altissimo di loro, organizza orgie nelle case dei nobili, si abbandona ai suoi mille vizi, tra cui l'alcol, che non ha mai lasciato dai tempi in cui faceva il contadino. Intanto arriviamo al 1905, l'anno in cui lo zarevich Alexei, il piccolo fragile erede al trono, ha una tremenda crisi. È di una gravità notevole. L'emorragia può durare vari giorni. Giorni? Ho telegrafato agli specialisti a Pietroburgo, sono partiti subito ma non saranno qui prima di domani. E il dolore? Il dolore va e viene. Alla febbre alta potrebbero sopravvenire complicazioni. Non possiamo che aspettare. Ma guarirà, vero, dottore? Il ragazzo è forte. È robusto, il ragazzo. Il gonfiore. Tu l'hai visto? La zarina è alla disperazione, non sa più a che santo votarsi. Nessun dottore sembra riuscire a trovare una cura. È qui che interviene la granduchessa Anastasia, che consiglia a Alexandra di ricorrere a quell'uomo santo, a quell'uomo dagli strani poteri, a Rasputin. E tra poco scopriremo il seguito di questa storia dai risvolti terribili. Santo il futuro, santi i nostri padri. Santo il mio cuore, santo più che mai. Stiamo raccontando la torbida storia di uno dei personaggi più controversi della storia, un santo, un peccatore dissoluto e libidinoso. Stiamo parlando di Grigori Yefimovich Rasputin. Ex contadino al tempo degli zar Romanov, diventa un monaco errante e grazie alle sue capacità discutibili ma efficaci approda ai salotti nobili dell'aristocrazia russa. E sono anni nei quali la nobiltà vede nei personaggi stravaganti un segno divino e queste figure a metà tra l'uomo di chiesa e il demone diventano delle celebrità. Le donne ne sono affascinate, Rasputin lo sa e ne approfitta senza ritegno. Abbraccia la fede della setta dei clisti che professano la remissione dei peccati attraverso l'espiazione della carne, cioè attraverso l'atto sessuale. Con questa scusa Rasputin passa da un letto all'altro delle dame della Russia zarista, che a suo avviso naturalmente hanno tutte bisogno di essere redente. Lui aspira a molto di più, vuole diventare il confidente degli zar. L'occasione gli si presenta in conseguenza di un fatto drammatico. Il figlio prediletto della zarina e dello zar Nicola II, lo zarevich Alexei, peraltro unico maschio erede al trono, ha una tremenda crisi della terribile malattia di cui soffre, l'emofilia. Rasputin viene chiamato perché ha una fama di guaritore. Varca finalmente il cancello del palazzo imperiale di Zaskoje Sielo. È il 1905. Rasputin riuscì a fermare l'emorragia del piccolo. Che ci fosse riuscito con l'ipnosi o semplicemente con la sua presenza, cosa che può succedere, non è dato sapere. Confortò molto la zarina, che era isterica. Questa è la professoressa Wendy Slater dell'Università di Londra, grande esperta della storia di Rasputin. Si pone il dubbio, chiaramente, se il finto monaco sia veramente dotato di qualche potere oppure sia un millantatore, un manipolatore del pensiero altrui. Però intanto il suo intervento è efficace e almeno questa volta l'erede al trono ha la vita salva. Rasputin ha forzato il muro che separa i comuni mortali dalla vita privata e protetta della famiglia imperiale. Così le sue visite a corte si fanno più frequenti. Deve avere pazienza, ci vogliono alcuni anni affinché i regali aprano senza riserve i loro cuori e la loro dimora all'ex contadino venuto dal freddo. L'episodio è raccontato dal professor Orlando Figes, autore del libro Rasputin, la tragedia di un popolo. Un incidente che capita nel 1912 in qualche modo rende definitiva la sua posizione a corte. La zarina esce a cavallo con Alexei e il ragazzo cade. L'emorragia interna è terribile. Nella sua disperazione, l'imperatrice manda un telegramma a Rasputin, che si trova a casa sua, nella lontana Siberia. Alexei sta morendo. Ho pregato incessantemente tutta la notte. I dottori non sanno cosa fare. Mi rimetto a voi, solo a voi, amico mio. Rasputin risponde con una sicurezza difficile da interpretare. O è veramente un santone, oppure tenta il tutto per tutto. Dio ha udito le tue preghiere e ha visto le tue lacrime. Il piccolino non morirà. Dì ai dottori di non disturbarlo. Miracolo, la mattina dopo l'emorragia si ferma, lo Zarevich è salvo. Come minimo si può pensare che Rasputin sia un uomo molto fortunato, per il resto siamo nel campo delle illazioni. Ma per l'imperatrice Alexandra Rasputin diventa il salvatore di suo figlio, la sua presenza a corte ormai è un fatto indiscutibile. Con la protezione dell'imperatore il suo potere cresce enormemente e l'uomo ha modo di violare tutti i comandamenti contenuti nei libri sacri. È capace di pregare con fervore al letto del piccolo Alexei per poi correre in strada tra le braccia della prima prostituta che trova, predica la purezza dell'anima e poi organizza orgie sataniche. Si dichiara protettore del popolo dal quale proviene, ma si fa corrompere dai politici che aspirano alle alte cariche dell'impero. Sembra un politico di oggi. Le sue due carriere, quella del santo e quella del demone, viaggiano in parallelo, mentre la sua fama cresce sempre di più. Rasputin è la pop star dell'epoca. L'influenza di Rasputin sulla casa reale è immensa. La zarina stravede per lui e lui può chiederle qualsiasi cosa. Tutto l'entourage imperiale è sottomesso al monaco. Nessuna donna gli sfugge, nessun uomo può osteggiarlo. Ecco che lentamente Rasputin passa dalle alcove delle dame alle poltrone della politica. Ormai il suo potere è illimitato. Può ordinare i vescovi e nominare i ministri. È assolutamente inutile ogni sforzo di far luce sui suoi traffici oscuri. Siano i deputati della Duma, la polizia segreta, chiunque ci provi trova un muro. Gli zar non credono a una sola parola. Lo difendono perché è un sant'uomo e si sa, i santi vengono sempre perseguitati. Il destino di Rasputin si compie quando la Russia si getta nella Grande Guerra. La carneficina di Mujiki, i contadini mandati a morire a migliaia, non si concilia con il suo credo religioso. Per quanto dissoluto e corrotto, la sua posizione è assolutamente pacifista. E quando nell'autunno del 1915 lo zar parte per il fronte e Alexandra diviene la reggente, Rasputin cerca di influire su di lei per condurre la Russia alla pace. E questo lo mette contro a molti poteri: la casta militare, l'aristocrazia nazionalista, l'opposizione liberale. Un ultimo tentativo per riuscire a allontanare il monaco dalla corte è affidato al primo ministro Trepov, che offre a Rasputin una somma di denaro spropositata per lasciare la capitale e tornarsene tranquillo in Siberia. Sentite, se vi porto del denaro, tanto denaro, ve ne andrete da Pietroburgo? Non posso andarmene. Io servo il piccolo padre e la piccola madre. Io voglio la pace e cibo per i poveri di tutta la Russia. Voglio quella ragazza che voi avete visto e tutte le altre che io non ho visto. Voglio dormire, ma non posso dormire se non sono ubriaco. E voglio morire e andare in paradiso. E voglio musica. Voglio che Dio mi voglia bene e voglio vedervi tutti ballare. Il monaco non solo rifiuta, ma informa la zarina di questo meschino tentativo di corruzione. Il prestigio dell'unico amico della famiglia imperiale, come lo definisce Alexandra, arriva ai massimi livelli. Non importa se lui sta portando la Russia alla disfatta, perché anche se le sue idee di pacifismo sono di per sé encomiabili, si trasformano in un comportamento assurdo e invia i fucili ai soldati ma non le munizioni, o viceversa, così che lo sterminio dei combattenti è assicurato. La disfatta della Russia è colossale e l'opinione pubblica inizia a vedere in Rasputin il colpevole di tutto questo. Ma di fronte alla determinazione della zarina e all'assenza dello zar, l'unica soluzione possibile è il complotto, e sono proprio gli appartenenti alla più pura aristocrazia russa a ordire un disegno delittuoso dalle tinte forti. Il complotto viene ordito dal granduca Dmitri Pavlovich, dal deputato di estrema destra Vladimir Purksievich, ma soprattutto dall'ambiguo principe Felix Yusupov. Yusupov è effeminato, forse omosessuale, è un grande ammiratore di Oscar Wilde, ma, e qui sta il tranello, è sposato con una delle donne più belle di Russia, Irina Alexandrovna Romanova, nipote dello zar. Yusupov conosce bene il punto debole di Rasputin, inizia a frequentarlo assiduamente, gli organizza feste danzanti in casa, gli promette di fargli incontrare la bellissima moglie, ma per un motivo o per l'altro fa sempre in modo che questo non accada. Nel frattempo alle orecchie del monaco arrivano voci di un complotto contro di lui e lui lancia un anatema alla zarina. I leave this behind. Se sarò ucciso da comuni assassini, in particolare dai miei fratelli, i contadini russi, allora la Russia continuerà ad essere per secoli una fiorente monarchia. Se saranno i tuoi parenti a causare la mia morte, allora tutta la tua famiglia non resterà in vita per più di 2 anni. Sarete uccisi dal popolo russo. Direi che quando lanciava gli anatemi Rasputin ci beccava. La tela del ragno che lo intrappola però si chiude. È la sera del 16 dicembre 1916. È stato tutto studiato nei minimi dettagli. Yusupov invita il monaco a una serata di quelle che lui non può rifiutare, perché il programma prevede l'incontro tanto agognato con la bellissima moglie Irina, che probabilmente è insoddisfatta dal marito, poi pasticcini e madera, il liquore preferito di Rasputin, e infine serata danzante nel quartiere Zigano con orgia finale, un bel programmino. La scena del delitto è il salotto di Palazzo Yusupov. Per 2 ore interminabili Rasputin attende l'arrivo dell'affascinante Irina, che tra l'altro non è nemmeno in città. Intanto beve madera avvelenato e degusta pasticcini al cianuro. Quelli al cioccolato non li avveleno. Avveleno soltanto questi e i calici dello sherry. Questi dolci chiamano il vino. Brindiamo alla nostra amicizia. Primo imprevisto, nonostante la dose da cavallo, il monaco resiste al veleno. Che sia un uomo dai poteri paranormali, un superuomo, beh, la notte degli orrori comunque si sta compiendo, non si può tornare indietro. Rasputin è gonfio di veleno, ma non muore. Yusupov decide di sparargli. Un colpo vicino al cuore mette fine alla vita dell'incarnazione stessa del male. Forse. I cospiratori pensano questo e cominciano a pensare a come disfarsi del cadavere. Ma il monaco ritorna dalla morte per beffarli ancora una volta. Recupera le ultime forze, riesce perfino a salire una scala, si ritrova nel cortile esterno del palazzo. Si getta nel giardino innevato verso il cancello d'uscita e verso la salvezza. Viene rincorso e raggiunto dai congiurati e viene ripetutamente colpito al cranio con un manganello. Pochi secondi e la morte sopraggiunge. Forse. Con l'aiuto dei domestici il corpo viene avvolto in una coperta, viene legato e gettato nelle gelide acque del canale Malaya-Moika. Ma il segreto del complotto dura solo 48 ore. Il 19 dicembre il corpo congelato e devastato di Rasputin riaffiora dal canale e l'autopsia rivela tracce di acqua nei polmoni, sintomo che quando era stato buttato nel gelido canale il monaco respirava ancora. Finisce l'era di Rasputin, il contadino venuto dal freddo che arriva alle vette estreme del potere della grande madre Russia. La zarina è devastata, ma il suo paese deve affrontare ben più gravi problemi. La disfatta della guerra è la rivoluzione bolscevica del 1917, che consegna nelle mani di Lenin il potere e porta all'assassinio, allo sterminio dell'intera famiglia dei Romanov. La predizione del santone siberiano si compie. Nessuno dei Romanov sopravvive, se non forse Anastasia, ma è un'ipotesi ancora avvolta nella leggenda. Maledetto e controverso, anche dopo morto, Rasputin fa ancora parlare di sé a distanza di un secolo. La storia di oggi è stata quella di un uomo che non ha saputo dare un colpo d'ala, anzi è sceso negli inferi più bui della sua stessa follia, ma sicuramente ha fatto qualcosa che ha lasciato un segno importante nella storia. E se voi volete mandarci i vostri commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il microfono, fatelo, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it oppure cercateci nei nostri social se volete. Mi trovate. Ciao, a domani. Bratisca con il miraggio che vivrai, che ti consuma come la morfina. Bratisca, dolce fratello mio, col cuore che vuol trattenere lei. Che fa? Bratisca. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.